14:50 minuti in diretta qui su Radio Stonata, Il Viaggio. E come Flavio già ce l'aveva presentato nell'ultimo intervento, intorno alle 14:20, ho il piacere e l'onore di presentarvi Luca Perissinotto. Ho detto giusto, Luca? Sì, certo. Ciao a tutti. Ciao, allora, Luca, la settimana scorsa abbiamo avuto ospite Barbara, anche lei blogger di nonsoloturisti.it, cioè tu pure come Barbara mandi i tuoi articoli al nostro grande Flavio Alagio di Non Solo Turisti e poi lui li pubblica. Ci puoi raccontare proprio il tuo approccio con Non Solo Turisti e quando li hai conosciuti e in quale occasione? Luca, mi senti? Sì, no, ti stavo dicendo, com'è il tuo approccio, com'è stato il tuo approccio con nonsoloturisti.it, dove l'hai conosciuti, come sei arrivato in contatto con loro? Allora, è stato un po' per caso, perché comunque stavo cercando di blog dove raccontare le mie esperienze di viaggio. E alla fine la mia scelta è ricaduta su Non Solo Turisti, perché comunque è stato quello che più mi ha appassionato per quello che stavo leggendo su un blog, che è quello che più praticamente mi ha colpito. E così sono riuscito a mettermi in contatto direttamente con Flavio, che sì, penso sia rimasto entusiasta dalla mia proposta. Infatti gli ho inviato subito un paio di articoli e li ha pubblicati. I primi articoli che infatti lui mi ha pubblicato sono stati quelli del mio ultimo viaggio che avevo fatto in Grecia e Turchia. Dei viaggi, no, che hai pubblicato su Non Solo Turisti, qual è quello che più ti è rimasto impresso, quello che più hai lasciato qualcosa e quando lo rileggi o lo rivivi con i pensieri, cioè dici ah, ma ci vorrei ritornare, ho lasciato un pezzo di cuore lì? Allora, quello dove proprio ho lasciato, come dici, un pezzo di cuore è stato alle Maldive. È stato più che un viaggio, è stata un'esperienza di vita. E è successo nel 2008, per un tirocinio universitario mi hanno mandato alle Maldive. Alle Maldive si va in vacanza, in viaggio di nozze, non c'è, no? Tutti quanti mi hanno invidiato, perché hanno detto wow, che bello, vai alle Maldive 3 mesi e mezzo. E ho detto sì, anch'io ero entusiasta all'inizio, poi ti rendi conto che è un po' come una prigione, perché stare in un'isola che di 1 chilometro per 200 metri non è proprio che hai tanto da svagarti. E comunque è stata una grandissima esperienza di vita, perché entri in contatto con una cultura totalmente diversa, con delle persone che sono totalmente diverse, e comunque è una scuola per la vita, ed è stato un viaggio e anche, proprio come già detto, un'esperienza di vita che è stata bellissima. Ok, dimmi. Infatti? E infatti adesso quando mi rileggo questi post ritorno infatti indietro con la mente e mi sembra di tornare proprio alle Maldive. Ok. E invece adesso ci racconterai l'ultimo articolo, se non ricordo male, che è stato pubblicato tuo su nonsoloturisti.it. Sì, esatto, l'ultimo articolo è stato qualcosa che ho dovuto pubblicare a cui sono molto legato, che è praticamente la mia città natale, che è Caorle, un piccolo paese sulla costa, sul litorale veneto. E questo si è svolta domenica 13 settembre. Ed è stata la processione della Madonnina, che per noi di Caorle è una cosa molto sentita, e è una processione che si tiene ogni 5 anni. E in passato si teneva prima ogni 25 anni, adesso si tiene ogni 5 anni, ed è un evento molto sentito per noi. È una processione che, a differenza delle altre, si svolge quasi esclusivamente via barca e via nave, insomma. Quindi questa Madonnina viene portata su un'imbarcazione o... Sì, esatto, allora c'è un'imbarcazione specifica, un'imbarcazione dedicata proprio alla Madonnina, che è la Caorlina. È fatta tutta in legno ed è rigorosamente, il trasporto viene eseguito rigorosamente a remi. Si parte dal porto e si esce dalla foce dell'Ivenza, e poi dalla foce dell'Ivenza si prosegue fino ad arrivare al santuario della Madonnina del Mare, che è proprio affacciato proprio su uno sperone di terra e si affaccia sul mare. E qui viene appunto la Madonnina, viene scaricata dalla barca e viene portata al santuario, dove resterà per i prossimi 5 anni. Infatti l'appuntamento adesso sarà per il 2020. Quasi quasi come un mondiale. Sì, diciamo che la cadenza più o meno è quella, un anno in più, però. Ma sempre... la cadenza è così lunga perché i preparativi sono difficili da. No, è stato. Allora, sinceramente non so la ragione per cui venga fatta una cadenza così lunga. Pensa che è stato portato a 5 anni. La cadenza è stata portata a 5 anni. Solo qualche decennio fa. Prima si svolgeva ogni 25 anni, quindi se ne svolgevano 4 ogni secolo. Mamma mia. Cioè, bisognava essere pure fortunati a vederlo. Per la hanno deciso di portarlo a 5 anni. Bisognava essere fortunati per vedere questa processione comunque. Infatti è stata una cosa che ho voluto scrivere perché magari qualcuno se ne ricorderà da qui al 2020 poi. Ok. Luca, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo anche te a venire qui a raccontarci le tue esperienze di viaggio. Non so, vuoi aggiungere qualche altra cosa? I microfoni della radio. No, volevo ringraziare voi per questa intervista e volevo salutare tutti quanti quelli che mi stanno ascoltando a casa. Ok. Grazie Luca e a presto. Grazie a voi, ciao ciao Beppe, ciao a tutti, ciao.